urlano tutti gli studenti. Il Natale è bello perché stiamo in famiglia, il Natale è bello perché abbiamo tempo libero, però il Natale, dobbiamo essere sinceri, mette sentimenti misti, siamo d'accordo? Mette sentimenti misti, da una parte c'è la gioia, da un'altra parte c'è una forma di malinconia, non lo so se anche voi vivete questo. Da una parte c'è la gioia magari di aver avuto un bel regalo. Quanti hanno avuto un bel regalo questo Natale? Posso vedere le vostre mani? Se siete vicino a vostro marito, vostra moglie che vi ha fatto il regalo, io vi suggerisco di alzare la mano, quindi rifaccio la domanda: avete avuto un bel regalo in questi giorni? Naturalmente. Magari siamo contrari ai regali, no? E il Natale è un po' così, ci divide nei sentimenti, ci divide in quelle che sono le emozioni che viviamo, ci divide anche come popolo cristiano, diciamocelo molto francamente. A volte come popolo cristiano siamo divisi tra va festeggiato il Natale o non va festeggiato, no? C'è qualcuno che mi manda un video contro il Natale, no? Gli auguri, cioè va cancellata la data, ti devi chiudere in casa, nessuno deve sapere che esisti e non devi avere contatto con l'esterno, perché tutti devono sapere che tu sei contrario a questa festa che di fatto ha origini pagane, perché in origine il 25 di dicembre si festeggiava il Dio Sole e sono stati cattolici, poveri questi cattolici che sempre addosso li diamo, no? Che hanno preso questa data e l'hanno trasformata nel farla diventare il giorno per festeggiare la nascita di Gesù. Ed è vero, la data è sbagliata, è vero anche che non si siamo esattamente nel 2016, lo sapevate? Perché si stima che Gesù sia nato 4, 5, addirittura 7 anni prima. E a me piace pensare che nel calendario quello giusto, io non sono nato nell'81, ma sono nato nell'86 o nell'87. Questo mi ringiovanisce di 4 o 5 anni. Quindi posso darti una bella notizia? Sei nato 5 o 6 anni dopo la tua data che è scritta lì sulla carta d'identità. Però sapete, il fatto è questo, e io credo che come cristiani possiamo essere concordi in una unica cosa, che di fatto Gesù è nato e di fatto questo ha cambiato la storia dell'umanità per sempre. Possiamo essere d'accordo su questo? E io credo che, anche se la data è sbagliata, perché non prendere questa, che è una data celebrata da tutti, per far conoscere il vero significato del Natale? Perché non prendere questa data per annunciare la buona notizia che Gesù di fatto è nato, è realmente esistito e ha fatto cose meravigliose? Perché non prendere il pretesto di un regalo per parlare del più grande dei regali? Perché non prendere l'occasione di una cena, di un pranzo, per condividere la testimonianza di quel Gesù vivo che ha cambiato la nostra vita? Credenti, cristiani, non demonizziamo il tutto, ma prendiamo ogni occasione, come ha fatto l'Apostolo Paolo, che trovatosi ad Atene, addirittura ha sfruttato quella che era la statua al Dio sconosciuto per prenderla come pretesto per annunciare quel Dio che è vivo e che ha potuto cambiare le tante persone che, ascoltando la predicazione di Paolo, si sono convertite quel giorno. Oggi è Natale per tutta la società che ci circonda, ed è un bellissimo giorno che noi possiamo considerare come un giorno nel quale annunciare quello che è stato l'evento che ha cambiato la storia, di fatto l'ha spaccata a metà. C'è un prima Cristo e un dopo Cristo. Gesù è venuto e ha cambiato per sempre la storia. Io questa sera, a prescindere da quello che è il tuo stato d'animo, a prescindere da dove ti trovi, voglio annunciarti la più bella delle notizie: che Gesù è nato. E questa notizia dà a te la possibilità di vivere una vita piena. Io questa sera voglio prendere l'occasione per estrapolare dalla parola di Dio una verità che può cambiare e stravolgere la tua vita, che tu sia un credente o sia un non credente, che tu credi del fatto che Gesù è nato, ha vissuto la vita che ha vissuto, è morto e risorto, che tu non ci credi. e voglio prenderlo da quello che è un verso che io ritengo racchiuda tutta l'essenza del Natale. Ed è un passo della Bibbia, un versetto scritto da uno degli apostoli più importanti, l'apostolo Paolo, importante perché ha scritto così tanto, importante perché ha testimoniato così tanto, importante perché è stato un rivoluzionario. E lui in 1 Timoteo capitolo 1 dal versetto 15 dice: certo, certa è questa affermazione. E ascoltate con quale enfasi lui presenta quello che sta per presentare a ciascuno di noi, ad ogni lettore. Ricordiamoci, non è l'apostolo Paolo che di suo parla, ma ispirato dallo Spirito Santo scrive queste parole. E quindi possiamo con certezza sapere che è Dio stesso che ha voluto che lui scrivesse quelle parole affinché quelle parole giungessero fino a noi oggi, nel 2016, quasi 2017, e ha voluto che arrivassero con tanta enfasi, con tanto vigore. Certa è questa affermazione è degna di essere pienamente accettata. Quale introduzione? Non richiama un po' di attenzione in ciascuno di noi? E poi aggiunge che Cristo Gesù è venuto nel mondo. Che Cristo Gesù è venuto nel mondo. E sapete, di fatto questa è un'affermazione che tutti accettano. Gli storici, le altre religioni, tutti affermano che Gesù effettivamente è realmente esistito, è realmente nato, ha realmente vissuto su questa terra. Gli storici, a parte quelli proprio radicalmente atei, affermano che anche nei Vangeli c'è una fonte attendibile di veridicità storica in quello che viene narrato e raccontato sul conto di Gesù Cristo. Tutti affermano che quest'uomo è nato, quest'uomo ha vissuto, quest'uomo ha fatto grandi cose e è stato causa di un grande movimento che ha rivoluzionato il mondo intero. Tutti sono d'accordo, anche i religiosi di altre religioni, anche i testimoni di Geova che non riconoscono in Cristo la deità, o mormoni, ortodossi, cattolici e addirittura musulmani. Nel Corano noi troviamo che il nome di Cristo Gesù viene citato più volte di Maometto stesso. Per 25 volte noi troviamo il nome di Cristo Gesù nel Corano. Anche i musulmani non fanno altro che confermare il fatto che Gesù è realmente esistito e loro credono sia stato un grande, grande profeta. Però se noi diamo un po' più attenzione alle parole che l'apostolo Paolo scrive, noi ci rendiamo conto che lui non sta affermando solo che Gesù è nato, ma quello che l'apostolo Paolo sta facendo, sta affermando che lui è venuto. E questo prevede che Gesù di fatto esisteva prima della nascita. E io spero che ciascuno di noi questa sera possa comprendere questo, che Gesù non comincia ad esistere nel giorno in cui nasce, ma Gesù è eterno e viene da eternità passate. E la sua nascita non è il fine della sua venuta, ma piuttosto la sua nascita è il mezzo attraverso il quale lui viene sulla terra. E perché viene sulla terra Cristo Gesù? Per conoscerci. Lui si fa uomo per comprenderci meglio. Gesù vive in mezzo a noi, vive su questa terra per avvicinarsi, per bussare, per cercare, per avvicinarsi e avvicinare a sé l'umanità. Gesù è venuto e questo prevede che lui era già presente. Sapete, il Vangelo di Giovanni, che non descrive la nascita di Gesù, non fa una narrazione di come Gesù sia nato. Non parla di Maria Vergine, non parla di quello che è lo scenario che troviamo invece negli altri due Vangeli, il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Giovanni presenta la venuta di Cristo con queste parole. Prestate attenzione. Giovanni dice: la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Gesù è il nostro stesso creatore. Gesù è colui che ha creato i cieli e la terra. Gesù è colui che ha creato l'uomo. Gesù è Dio. E lui decide di nascere, di farsi piccolo come un bambino, e avrebbe potuto scegliere di venire in tante altre maniere, molto più eclatanti, molto più grandi. Viene e nasce come bambino per rendersi accessibile, per rendersi vulnerabile e per raggiungere ciascuno di noi. Gesù non è nato per nascere. Lui è nato per morire. Abbiamo sentito la scorsa settimana, citavo questo, che è una frase che è Billy Graham che ha predicato più volte, dicendo: Gesù non è nato per nascere, non è venuto per nascere, di fatto è venuto per morire. Gesù è venuto per una missione. Infatti il verso dell'apostolo Paolo continua dicendo, certa, e lo voglio rileggere per tutti noi, certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Gesù non solo è venuto nel mondo, come è venuto, scegliendo la nascita, facendosi piccolo, facendosi bambino, ma è venuto per una ragione. Non è venuto per vivere una vita che era dettata dalla casualità. Non è venuto qui su questa terra per lasciarsi guidare dalle giornate, scorrere delle giornate qualsiasi, afferrando quelle che erano le opportunità del momento. No, Gesù è venuto per una missione ed è importante per noi comprendere che Gesù è venuto per una missione specifica che ha a che fare con me e con te. Gesù non è venuto per fare la storia, non è venuto per diventare un grande, non è venuto per finire nei libri di storia, anche se tutto questo è successo. Non è venuto per cambiare il nostro calendario, non è venuto per darci un'altra festività ogni 25 dicembre. Gesù è venuto per un'altra ragione molto più gloriosa, per salvare ciascuno di noi. Gesù è venuto per salvare me. Gesù è venuto per salvare te. La scorsa settimana citavo quello che è un episodio tra un uomo religioso che va a cercare Gesù di notte. E in questa notte Gesù dice queste parole che conosciamo tutti molto bene. Parlando con Nicodemo dice: sai Dio, e parlava di se stesso, ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, e parlava ancora di se stesso, affinché chiunque crede in lui, e parlava di se stesso, non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio, parlando di se stesso, non ha mandato il suo figlio, e parlava di se stesso, per giudicare il mondo, ma affinché il mondo fosse salvato per mezzo di lui, parlando di se stesso. Lui è venuto per salvare ed è venuto per salvarci per un'eternità. Gesù, l'unico che poteva conoscere l'eternità, perché veniva dall'eternità, è venuto su questa terra per salvarci per l'eternità. Lui è venuto per chiamarci a sé da dove lui stesso veniva e per darci la garanzia di un'eternità salva. Forse è difficile parlare dell'eternità, ma non posso distorcere la parola di Dio e dirti: Gesù è venuto solo per salvarti per questa vita. Sì, lui viene per darti una vita migliore. Gesù ha detto: io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita in abbondanza. Gesù è venuto per darti benedizioni qui su questa terra. Sì, è venuto per guarirti, è venuto per liberarti, è venuto per darti gioia piena. Però il fine ultimo della sua venuta e l'eternità, affinché tu non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù viene dall'eternità, annuncia l'eternità e ci salva per l'eternità. Amici, fratelli e sorelle, la nostra vita non è limitata a quelli che sono gli 80, i 90, i 100, buon per te, i 120 anni che vivrai su questa terra. La tua vita ha un inizio, ma non ha una fine. Ci sarà un passaggio che è la tua morte. E alla tua morte ci sarà un giudizio dove tu finirai per spendere la tua eternità lontano da Dio, in quella che è una sofferenza molto maggiore di quella che percepisci qui su questa terra, oppure finirai nel migliore dei posti che Dio ha preparato per te. È per questo che noi cantiamo, e cantiamo e abbiamo motivo di cantare di questa cosa che forse non conosciamo appieno, ma di cui Gesù ci ha insegnato e ci ha parlato, ed è la ragione per la quale Lui è venuto, l'eternità. Né pianto, né dolore, né malattia, né guerre, né pestilenze, né ingiustizie, né violenze, né abusi, per l'eternità. Gioia completa, non ci sarà più lacrima, non ci sarà più sofferenza, non ci sarà più rottura, non ci sarà più separazione, non ci sarà più dolore, per l'eternità, in Cristo Gesù. Gesù non è venuto per darti una vita migliore. Gesù è venuto per darti la vita eterna. Perché Lui sa che questa è solo una briciola. Quello che tu puoi vivere qui su questa terra, confronto a quello che c'è davanti per l'eternità, è solo una briciola. Per illustrare bene la cosa, un predicatore un giorno venne con un cavo sul palco. Un cavo molto lungo che era presente in tutta la sala, e con questa corda, con questa fune, prese l'estremità e ci avvolse attorno all'estremità un piccolo fiocchetto e disse alle persone che erano nella sala: sapete, la vostra vita ha avuto un inizio, ma come questa corda non ha fine, e la tua vita terrena è lunga quanto questo fiocchetto, è breve, dura poco rispetto a quello che è il lungo percorso, lunghissimo percorso, eterno percorso che ti sta davanti. Comprendi? Forse no, però io ho una buona notizia per te. Non devi comprendere appieno, ma devi accettare, e puoi accettare questa sera, la promessa della vita eterna in Cristo Gesù. Il verso dell'Apostolo Paolo va avanti e dice: certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e aggiunge, dei quali io sono il primo. Sapete, è anche facile essere osservatori di un Gesù che salva l'umanità e che invita l'umanità ad essere salvata. Chiunque potrebbe stare al posto mio qui questa sera a parlare di una salvezza che è aperta al mondo intero in Cristo Gesù. Ma quando questa salvezza si fa personale, è lì che cambia tutto. E questo passaggio nel verso dell'Apostolo Paolo io lo amo, perché lui parte da quella che è una panoramica, un grand'angolo che inquadra l'intera umanità, per poi scendere e inquadrare se stesso in primo piano e dire: io sono il primo dei peccatori. Ma in questa affermazione indirettamente sta dicendo: io sono anche il primo dei salvati, io sono il primo che gode di questo beneficio. E sapete, il regalo della vita eterna, la salvezza per grazia in Cristo Gesù, è qualcosa che tu puoi osservare da distanza e non beneficiare. E la scelta rimane tua, se rimanere un osservatore o diventare un beneficiario del dono. La scelta è tua e sta a te, l'abbiamo letto nel Vangelo di Giovanni, perché il Vangelo di Giovanni dice con molta chiarezza, no, con queste parole, che chi ha ricevuto Cristo Gesù, lui ottiene il diritto di diventare figlio di Dio. Paolo era un beneficiario, a lungo è stato un osservatore un osservatore a distanza che addirittura ha giudicato quello che osservava. Ma a un certo punto si è reso conto che quel regalo, quel dono era per lui e ha beneficiato di questo dono. Se leggete i Vangeli è evidente che Gesù è venuto proprio per questo. È lui stesso a un certo punto che dice il figlio dell'uomo, in Luca 19, versetto 10, il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù non lo nasconde, non mostra diversamente, non racconta e non insegna diversamente di quello che io sto dicendo questa sera. Lui lo mette molto chiaramente davanti a tutte le persone che lo seguono, che lo ascoltano e a noi che leggiamo i Vangeli oggi. E se leggi accuratamente i Vangeli oggi ti renderai conto che Gesù è venuto per una ragione specifica. E questa ragione è proprio per cercare e salvare ciò che è perduto. E questa frase Gesù la dice stando a cena di un peccatore, Zaccheo. Non so se conoscete la storia, Gesù è qui a pochi mesi dalla sua morte. Da lì a pochi mesi sarebbe stato crocifisso, sarebbe morto e poi risorto. E a Gerico passa da questa città per andare verso Gerusalemme. E passando da questa città, oramai la sua fama era qualcosa che lo precedeva, no? Come si suol dire. Tutti conoscevano che questo Gesù era un operatore di miracoli, era un insegnante, in tutta Israele si parlava di Gesù oramai. Infatti, se vi ricordate, quando entra in Gerusalemme viene accolto in una maniera trionfante. Un popolo intero, persone, folle intere inneggiano al nome di Gesù. È diventato famoso e passa per la città di Gerico e ci sono molte persone che vogliono osservarlo. Molte persone che sono affascinate dal fatto che hanno la possibilità di vedere il guaritore, di vedere questo insegnante, di vedere questo profeta. Tra queste persone c'è Zaccheo, un uomo di bassa statura, che per vedere Gesù sale su un albero e osserva quest'uomo. Gesù passa e vede Zaccheo sull'albero e dice: è necessario che io venga a casa tua. Non domanda, mi accoglieresti? Non è molto, molto gentile nei modi. Non dice, mi potresti dare da mangiare? No, è importante, è necessario che io venga a casa tua. Zaccheo è contento, è felice, lo accoglie. E Gesù entra in casa. Ora Zaccheo, noi dobbiamo comprendere che era un peccatore, era un pubblicano. I pubblicani erano degli estorsori. Sono andato bene. Quando non sei certo della parola, basta troncarla a metà. Era un estorsore, era un mafioso. Quello che lui faceva era raccogliere le tasse. Ma era più un racket, perché all'epoca non c'erano dei conti che tornavano, no? E quindi i romani facevano una valutazione in base alla casa che avevi, alle proprietà che vedevi che tu avevi, e dava una cifra e affidava a questi pubblicani, che erano di fatto dei traditori perché erano degli israeliti che rispondevano ai romani, si mettevano in mezzo e estorcevano la gente per prendere questi soldi, darli ai romani, ma tenersi una parte. E quindi sempre aumentavano un po' quella che era la tassa. Potete immaginare quanto fosse odiato Zaccheo. Non solo, noi leggiamo che lui non solo era un pubblicano, ma era il capo dei pubblicani. Era un uomo di carattere, evidentemente, un bel mafiosetto, che era lì per estorcere, per derubare, per imbrogliare, per tirar fuori quanto più guadagno da persone che magari stavano messe male. E con violenza, con abuso, prendeva i soldi di queste persone. Questo è Zaccheo. E Gesù dice, io voglio venire a casa tua. Va a casa sua, e quello che leggiamo in Luca 19 è che la vita di Zaccheo cambia per sempre. In questo incontro non sappiamo di che cosa hanno parlato, non sappiamo cosa è successo in quella cena, ma sappiamo una cosa, che Zaccheo a un certo punto dice a Gesù, Se io ho frodato, se io ho derubato qualcuno, io darò 4 volte tanto. Se c'è qualcosa che io ho fatto di male, io voglio rimediare. E si ravvede in questa maniera, dice: metà dei miei averi io li darò ai poveri. E cambia totalmente la vita di quest'uomo. Perché? Perché ha incontrato Gesù. Perché? Perché ha fatto quello che l'Evangelo di Giovanni presenta nel capitolo 1, dicendo: chi l'ha ricevuto ha ottenuto il beneficio di diventare figlio di Dio. E quindi Gesù ha la possibilità di dire queste parole: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Io voglio concludere questa riflessione, però portandoti a una semplice domanda. Vuoi essere un osservatore che rimane a distanza? Vuoi rimanere nella condizione di Zaccheo, che è su quell'albero ad osservare Gesù che passa? O alle parole che stai udendo questa sera, alle parole che io sto utilizzando, vuoi aprire il tuo cuore e permettere a Gesù di entrare affinché la tua vita sia salva per l'eternità? Puoi dire a te stesso: io ho la certezza della salvezza. Puoi dire come l'apostolo Paolo: io ero il primo fra tutti, ma ho beneficiato del dono di Cristo Gesù. Puoi dire questa sera: io ho la certezza di passare la mia eternità alla presenza di Dio, dove non c'è dolore, dove non c'è malattia, dove non ci sono guerre, e starò alla sua presenza giustificato completamente dal fatto che lui è venuto per questa ragione e dona a me gratuitamente questo regalo che è la salvezza per grazia. Se non lo puoi dire questa sera, c'è speranza, perché l'Evangelo è proprio questo. L'Evangelo è la buona notizia per te, che ti dà occasione di ricevere Cristo Gesù. E ricevere Cristo Gesù significa aprire il tuo cuore e cominciare ad avere una relazione con Lui. È per questo che Gesù è venuto, per cominciare un cammino con te. Vogliamo alzarci in piedi? Io sono certo che questa sera sono molte le persone che vogliono fare una decisione. Forse non sei credente, conosci la storia di Gesù, ma non l'hai mai invitato nel tuo cuore. Beh, questa sera hai la possibilità di invitarlo nel tuo cuore. Forse sei credente, ma non ceni più con Gesù da tempo. Ti sei rimesso al ciglio di quella strada ad osservare quello che lui fa nella vita degli altri e a non beneficiare più del dono della sua presenza nel tuo cuore, nella tua vita, nella tua quotidianità. Questa sera, entrambe questi tipi di persone hanno la possibilità di fare una scelta. Non la fai, non è una scelta che fai con me, non è una scelta che fai per me, è una scelta che tu fai davanti a Dio, alla presenza di Gesù, nella consapevolezza che Lui è venuto proprio per questo. Vorrei chiedere a tutti noi di chiudere i nostri occhi, abbassare il nostro capo e di cominciare a pregare. Magari questa sera devi riconsacrare il tuo cuore a Dio e dire: io voglio te, Gesù. So che sei venuto per darmi una vita e una vita eterna, per salvarmi e per darmi un futuro diverso. Comincia a pregare, comincia tu stesso a invitarlo nel tuo cuore, a beneficiare del dono nella sua interezza, nella sua pienezza. Questo Natale diventa un Natale come non lo hai mai visto se fai questo tipo di scelta. E pare, io voglio pregare per quanti cuori in questo momento riconoscono che sono vuoti, che sono aridi, che sono pieni di tante altre cose, ma non di te. Io prego che possano essere riempiti della tua presenza. Io prego, Gesù, che come sei entrato nella vita e nella casa di Zaccheo, tu possa entrare nella vita e nella casa di ciascuno di noi. Noi preghiamo per salvezza nelle nostre famiglie, noi preghiamo per luce, noi preghiamo per cambiamento, noi preghiamo che la ragione per la quale tu sei venuto 2000 anni fa possa essere qualcosa che noi non osserviamo a distanza, ma di cui beneficiamo ogni nuovo giorno a partire da questa sera. Se tu questa sera dici, io non ho mai fatto una preghiera di invito a Gesù nel mio cuore, nella mia vita, allora io voglio guidarti in una preghiera. E mentre rimaniamo ancora con gli occhi chiusi, il capo chino, voglio chiedere a te, se questa sera vuoi fare questa preghiera e vuoi invitare Gesù nel tuo cuore, nella tua vita, vuoi che la tua vita sia cambiata, vuoi avere la certezza della salvezza per l'eternità, allora io ti chiedo in questo momento di alzare la tua mano. Lo fai davanti a Dio, a Lui che è vivo e ci guarda in questo momento e vuole vedere il tuo cuore arreso. Lo fai anche in modo tale che io possa vederti, possa sapere per chi sto pregando. C'è qualcuno? Grazie, grazie, grazie, grazie. Vedo tante mani anche dietro che si alzano. Grazie. Se hai alzato la tua mano, la puoi abbassare ora. C'è ancora qualcuno? Voglio chiederti, non essere timido davanti a Dio. Ti ringrazio. Manteniamo gli occhi chiusi, non curiosiamo. È un momento nel quale vogliamo stare alla presenza di Dio e permettere a persone di fare scelte. C'è ancora qualcuno? Sono convinto che questa sera c'è ancora qualcuno che vuole arrendere il suo cuore a Gesù Cristo e dire: Gesù, vieni, vieni nella mia vita e cambiala. Se c'è ancora qualcuno, alza ora la tua mano. Grazie. Grazie per il coraggio, grazie per la fermezza anche di questo gesto. Io sono convinto che è Gesù a vederlo e questo è quello che conta questa sera. C'è ancora qualcuno? Grazie. Potete abbassare le vostre mani, che bello, vedo che tante persone questa sera stanno facendo una decisione. Allora voglio chiedere a queste persone che hanno alzato la loro mano di ripetere con me queste parole. Anzi, lo vogliamo fare tutti insieme. Chiesa, tu che sei credente, tu che hai già accettato Gesù nel tuo cuore, la tua vita è trasformata, accodati a me in questa preghiera. Ripeti con me affinché possiamo unirci in questa preghiera per la salvezza di queste decine di persone che hanno aperto il loro cuore a Gesù. Vogliamo ripetere insieme: Signore Gesù, noi ti lodiamo, ti ringraziamo questa sera, perché continui a fare quello che sempre hai fatto. Grazie perché tu salvi. Grazie perché tu cambi. E io ti prego di entrare nella mia vita. Io ti prego di trasformare il mio presente e il mio futuro. Io ti prego di perdonare ogni mio peccato, di cancellare ogni mia macchia e di darmi un nuovo inizio in te. Grazie Gesù per essere morto e risorto. E grazie Gesù per il dono della vita eterna. Lo voglio, lo desidero e ti chiedo di darmelo. Amen. Amen. Amen. Che bello, sono così contento. Mi scoppia il cuore di gioia, non lo posso descrivere, perché sai, quello che tu hai fatto non è un gesto tanto per, non è un gesto religioso. Quello che tu hai fatto questa sera è decidere di aprire la porta di casa tua per far entrare Gesù. Sì. E io sono convinto, è mia convinzione, ferma convinzione, che Gesù Cristo è vivo. È per questo che abbiamo stampato questi banner enormi, perché noi ci crediamo. Gesù è vivo oggi e trasforma le vite oggi. E tutto ciò che ci tiene ancora distanti da Lui è la nostra decisione di aprire il nostro cuore ed essere sinceri e autentici con l'autore di vita. Continua ad essere sincero. Ho visto mani che si sono alzate con determinazione questa sera. Continua ad essere determinato. Ho visto mani di persone che si sono arrese e so che Dio ha visto il tuo cuore. Continua ad essere aperto a quella che è l'opera che Lui vuole continuare a fare nella tua vita a partire da questa sera. Noi come Chiesa siamo così contenti che tante altre persone possono fare quella scelta che noi abbiamo fatto e che ha cambiato per sempre la nostra vita, vero? Ed è per questo che vogliamo farti un applauso come si deve. Quindi facciamo un applauso a coloro che hanno fatto una scelta. Facciamolo come si deve, però. siamo felici per quello che può essere un nuovo inizio nella tua vita e vogliamo darti un regalo. Vogliamo dare un regalo a tutte quelle persone che questa sera hanno fatto per la prima volta questa scelta e hanno ripetuto con me questa preghiera. Qui dentro trovate delle bellissime cose e non ve le dirò, non vi dirò cosa c'è, però è un regalo per te, siamo generosi e vogliamo darti questo regalo semplicemente quale gesto perché vogliamo che tu possa proseguire il cammino che hai cominciato questa sera. Se desideri prendere questo regalo, allora a fine di questo incontro noi ti chiediamo di incontrarci nell'atrio d'ingresso dove ci sono i divanetti, dove avete visto Daniele che suonava il violino. Potete andare lì, ci saranno persone che hanno questo pacco regalo per te e non vogliamo essere invadenti, non vogliamo pretendere delle cose, vogliamo darti questo regalo. Però se tu hai desiderio anche di fare ulteriori domande, conoscerci e ascoltare quella che è la nostra storia, allora noi siamo liberi di darti, anzi gioiosi di darti ogni dettaglio per come tu puoi continuare questo cammino che oggi hai cominciato. Il Signore ci benedica, che ci dia un Natale come non l'abbiamo mai visto e delle festività dove vediamo salvezza, nelle nostre famiglie, tra i nostri amici, nelle nostre cene, nei nostri pranzi. Preghiamo gli uni per gli altri affinché la luce vera possa risplendere nel mondo che ci circonda. Amen. Vogliamo cantare ancora insieme, lodare il Signore.